Torniamo da Currer Bell a Charlotte Bronte. L'inverno a Haworth era stato portatore di malattie. L'influenza aveva imperversato tra gli abitanti del villaggio e dove vi era stata una vera necessità della presenza delle figlie del parroco, queste non erano mai venute meno, nonostante fossero schive allo scambio di visite con i parrocchiani. Loro stesse erano state toccate dall'epidemia. Anne, gravemente, visto che in lei si era presentata una forte tosse con una febbre così alta da preoccupare seriamente le sorelle maggiori. Senza alcun dubbio, la prossimità del cimitero affollato rendeva la canonica insalubre e fu cagione determinante di malattia per i suoi abitanti. Mr. Bronte fece energicamente presente alla sanità pubblica la insalubre condizione di Haworth e, dopo aver conseguito le ispezioni richieste, ottenne la raccomandazione che qualsiasi futura inumazione nel vecchio cimitero venisse proibita, che un nuovo cimitero fosse aperto sul fianco della collina e che si iniziasse a organizzare la fornitura dell'acqua ad ogni casa, così da evitare alle stanche massaie sopraffatte dal lavoro l'obbligo di trasportare ogni secchio d'acqua dalla distanza di parecchie centinaia di metri su per una ripida via. Ma gli fu impedito di raggiungere questo scopo dai più, che rifiutarono il contributo richiesto, così, come in molti altri casi, la quantità vinse sulla qualità, il numero sull'intelligenza. Spesso in Haworth la malattia si presentava sotto forma di un leggero tifo e febbre di vario tipo vi imperversavano con triste frequenza. Nel febbraio del 1848 Luigi Filippo fu detronizzato. La rapida successione degli avvenimenti in quel tempo fu commentata da Miss Bronte in una lettera indirizzata a Miss Wooler in data 31 marzo. «Ricordo bene, scrive Charlotte, di aver desiderato essere nata nei tempi inquieti dell'ultima guerra e di aver visto nei suoi eccitanti incidenti una specie di stimolante incanto al cui pensiero il battito del mio polso si accelerava. Ricordo anche di avere provato una leggera impazienza per il suo rifiuto di simpatizzare pienamente coi miei sentimenti in proposito, mentre ascoltava le mie aspirazioni e le mie riflessioni assai tranquillamente, poco convinta che le spade fiammeggianti potessero essere una piacevole aggiunta alla felicità del paradiso. Beh, ora ho oltrepassato il limite della giovinezza e, benché non osi dire di essermi lasciata alle spalle tutte le sue illusioni, che quanto vi è di romantico sia completamente scomparso dalla vita, che il velo sia caduto dalla verità e che io veda tanto l'una quanto l'altra nella loro nuda realtà. Tuttavia, certamente molte cose non sono più come erano 10 anni or sono, e insieme a tutto il resto, le pompe e i fasti della guerra, tra virgolette, hanno completamente perso ai miei occhi il loro fittizio splendore. Però ancora non ho dubbi che la scossa dei terremoti morali destino un vivido senso della vita sia nelle nazioni che negli individui, che il timore del pericolo diffuso su scala nazionale svii momentaneamente la mente degli esseri umani dai piccoli pericoli individuali e per un momento dia loro una qualche larghezza di vedute, ma sono anche sicura che le rivoluzioni arrestino nel mondo tutto quanto vi è di buono, frenino la civiltà, portino la feccia in superficie. A farla breve, mi sembra che le insurrezioni e le battaglie siano le malattie acute delle nazioni, che la loro tendenza sia di esaurire con la loro violenza le energie vitali del paese in cui avvengono. Prego ardentemente che all'Inghilterra siano risparmiati gli spasmi, i crampi, le crisi frenetiche che in questo momento agitano il continente e minacciano l'Irlanda. Non provo simpatia per i francesi e per gli irlandesi. Penso che il caso dei tedeschi e degli italiani sia diverso, tanto differente quanto l'amore per la libertà differisce dalla brama della licenza. Giunse il giorno del suo compleanno. Scrisse all'amica, il cui compleanno seguiva il suo a distanza di una settimana. Fu la solita lettera, ma leggendola ora che sappiamo quello che aveva realizzato, percepiamo la differenza dei suoi pensieri da quelli di 1 o 2 anni prima, quando aveva detto «non ho compiuto nulla». Deve esservi stata in lei la modesta consapevolezza di aver compiuto qualcosa, finalmente, quando scrisse «ho ormai 32 anni». La gioventù è trascorsa, passata, non tornerà più, è inevitabile. A me sembra che, una volta o l'altra, l'ora del dolore debba scoccare per tutti, e a chi ne ha solo superficialmente sentito il sapore in gioventù, spesso negli anni successivi tocca una coppa più traboccante e più amara, mentre a chi da giovane ne ha inghiottita la feccia, senza assaporare il vino, può sperare che col tempo gli venga offerta una bevanda più gradita, al palato. Il nome dell'autore di Jane Eyre era tuttora un segreto gelosamente custodito nella famiglia Bronte. Nemmeno l'amica, che era quasi una sorella, ne sapeva più degli altri. Poteva immaginare, è vero, sia in base alla conoscenza delle consuetudini dell'interessata, sia dalla circostanza delle bozze di stampa corrette e AB, che un qualche progetto letterario stesse maturando, ma non sapeva altro. E saggiamente non accennò a nulla finché non le giunsero informazioni da un'altra fonte, con l'assicurazione che Charlotte Bronte era ormai una scrittrice, autrice di un romanzo dato alle stampe. Allora le scrisse e ricevette in risposta le due lettere qui sotto riportate, a te più a confermare, come mi sembra ora, nella loro stessa veemente e agitata negazione, la verità di quella voce. 20 aprile 1848. Scrivi un'altra lettera e spiega chiaramente quel tuo ultimo biglietto. Se le tue allusioni riguardano me, come sono indotta a credere, mettiti bene in mente quanto segue. Non ho dato ad alcuno il diritto di spettegolare sul mio conto e non intendo essere giudicata in base a frivole congetture, da qualsiasi parte vengano. Fammi sapere quello che hai sentito dire e da chi. 3 maggio 1848. Tutto quanto posso dirti su un certo argomento è quanto segue. La diceria, se una diceria vi è, e se la signora, che sembra essere stata alquanto ingannata, non ha sognato quello che immagina le sia stato detto, deve avere origine da un qualche assurdo malinteso. Non ho dato a nessuno il diritto di affermare né di insinuare anche lontanamente che io sia in procinto di pubblicare menzogna. Chiunque l'abbia detto, se qualcuno lo ha fatto, del che dubito, non mi è persona amica. Anche se 20 libri mi venissero attribuiti, non ne confermerei uno solo. Respingo totalmente l'idea. Chiunque insista, dopo che ho chiaramente rigettata l'accusa, commetterà una malevole e malcreata azione. La più profonda oscurità è infinitamente preferibile a una notorietà volgare. Questa notorietà non la cerco e non l'avrò. Perciò, se qualsiasi B o G avesse la presunzione di infastidirti in proposito, di chiederti quale romanzo Miss Bronte ha recentemente pubblicato, tu puoi semplicemente dire, con la fermezza di cui sei perfettamente padrona quando vuoi, che sei autorizzata da Miss Bronte a dire che ella respinge e sconfessa qualsiasi accusa del genere. Puoi aggiungere, se ti fa piacere, che se c'è qualcuno che gode delle sue confidenze, quel qualcuno sei tu e che ella non ti ha fatto in proposito alcuna sciocca confessione. Non riesco a immaginare da quale fonte può essere scaturita la voce e temo che l'origine sia lungi dall'essere amichevole. Tuttavia, non ne sono sicura e sarei molto lieta di giungere a una certezza. Se tu udissi qualche altra cosa, per piacere fammelo sapere. La tua offerta della vita di Simeon è molto gentile e te ne ringrazio. Sono certa che a papà farebbe molto piacere scorrere questo lavoro, visto che ha conosciuto Mr. Simeon. Togli dal capo di A, scherzando o parlando sul serio, l'idea che vi sia stata una pubblicazione e credimi, nel bene o nel male, sia che mi calunnino che mi lascino in pace, tua sinceramente, Charlotte Bronte. Mi dicono che Miss Bronte era tanto ansiosa di mantenere il segreto perché aveva dato la sua parola alle sorelle che niente sarebbe stato da lei rivelato. Gli equivoci che nascevano dalla pubblicazione dei romanzi delle sorelle, firmati con pseudonimi, si moltiplicavano. Molti critici insistevano nel pensare che i racconti usciti sotto il nome dei Tre Bell fossero l'opera di un unico scrittore, scritti in diversi periodi di sviluppo e di maturità. È indubbio che questo sospetto abbia influito sull'accoglienza fatta ai libri. Fin dalla conclusione del suo Agnes Grey, Anne Bronte aveva iniziato a scrivere un secondo romanzo, The Tenant of Wildfell Hall, La signora di Wildfell Hall. È poco conosciuto. L'argomento, il deteriorarsi di un carattere la cui condotta immorale e la conseguente rovina derivano da un'abituale intemperanza nel bere, all'inizio così leggera da essere considerata semplicemente come manifestazione di buon cameratismo, era ben poco in sintonia con l'indole di una giovane donna che tendeva a sottrarsi a qualsiasi pensiero che non fosse di pace. Aveva dovuto, dice la sorella maggiore parlando di quella mite piccolina, vedere da vicino e a lungo i terribili effetti di un ingegno male impiegato e dell'abuso delle sue facoltà. L'indole sensibile la inclinava al riserbo e alla depressione, quello che vide in casa da suo fratello. Le penetrò profondamente nella mente, le fece male. Vi rimuginò sopra finché giunse alla conclusione che fosse suo dovere riprodurne ogni particolare, naturalmente avvalendosi di personaggi fittizi, variando gli incidenti e le situazioni per mettere sull'avviso chi avrebbe letto. Detestava quel suo lavoro, pur ostinandosi a portarlo avanti. Quando cercavamo di farla ragionare, in proposito, considerava quei ragionamenti come un invito alla debolezza. Riteneva un dovere essere onesta, senza abbellire, ammorbidire o nascondere. Questa risoluzione, presa a fin di bene, le valse malintesi e anche alcuni violenti rimproveri che sopportò, come era solita sopportare, quanto era spiacevole, con mite e ferma pazienza. Era una sincerissima cristiana, praticante, ma la componente di religiosa malinconia gettò una triste ombra sulla sua breve vita senza macchia. Nel giugno di quell'anno, The Tenant of Wildfell Hall, quasi concluso, fu sottoposto all'esame della persona che già aveva pubblicato i precedenti lavori di Ellis e di Acton Bell. Come conseguenza del suo modo di agire, Miss Bronte e le sorelle dovettero subire non pochi fastidi. Questi fatti furono narrati minutamente da Charlotte all'amica che risiedeva in Nuova Zelanda. Ai primi di luglio era giunta alla canonica una lettera che aveva agitato non poco le sue tranquille abitanti. Pur essendo la circostanza sulla quale veniva richiamata la loro attenzione attinente alla carriera letteraria, esse la considerarono lesiva anche della loro reputazione in generale. Jane Eyre aveva avuto molto successo in America e un editore americano si era assicurato a caro prezzo l'esclusiva di un eventuale prossimo lavoro di Currer Bell. I signori Smith e Elder glielo avevano promesso e si erano però stati altamente sorpresi e tutt'altro che compiaciuti nello scoprire che, a loro insaputa, un'intesa parallela era stata stipulata con un'altra casa editrice americana che avrebbe quanto prima pubblicato il suo nuovo romanzo. Dopo essere andati a fondo della cosa, fu appurato che l'equivoco era dovuto all'editore di Ellis e di Acton Bell, che aveva assicurato alla casa editrice americana che, secondo quanto loro costava, Jane Eyre, Cime tempestose e The Tenant of Wildfell Hall, considerato superiore agli altri due romanzi, erano scritti dallo stesso autore. Nella loro lettera i signori Smith e Elder dichiaravano di non condividere quell'opinione e le sorelle da parte loro erano ansiose di dimostrare quanto fosse senza fondamento, chiarendo così l'equivoco. Decisero subito che Charlotte e Anne dovevano recarsi a Londra quello stesso giorno per dare ai signori Smith e Elder la prova tangibile della loro identità e chiedere all'altro editore perché mai la sua opinione contravvenisse con tanta sicurezza quanto gli era stato ripetutamente comunicato. Presa questa determinazione, fecero i loro preparativi con grande prontezza. Quel giorno c'erano tante faccende domestiche da sbrigare, ma furono tutte sistemate. Poi misero ciascuna un cambio di abiti in un bauletto, consegnandolo a un carro che andava a Keighley e, dopo aver preso il tè prima del solito, si incamminarono a piedi. Erano alquanto eccitate, poiché, indipendentemente dal motivo che le chiamava a Londra, era la prima visita che Anne vi faceva. Un fortissimo temporale le colse per strada, ma in quella serata d'estate non avevano tempo di mettersi al riparo. Arrivarono appena in tempo per prendere il treno a Keighley, giunsero a Leeds, dove si imbarcarono sul treno di notte per Londra. Verso le 8 del sabato mattina giunsero al Chapter Coffee House in Paternoster Row. Strana scelta, ma non sapevano dove altro andare. Si rinfrescarono un po' e presero una leggera prima colazione, poi rimasero per qualche tempo a considerare cosa convenisse fare. Quando la sera prima, nella quiete della canonica di Haworth, avevano discusso sul da farsi e sul come comportarsi una volta a Londra, avevano deciso di prendere nel caso una carrozza per recarsi dalla loro locanda all'indirizzo dell'editore, ma nel trambusto interiore e nello strano stato di eccitazione in cui si trovavano ora, mentre si consultavano sul da farsi, dimenticarono la vettura e uscirono a piedi. Si incamminarono sgomente per le vie affollate, rimanendo a lungo fermi agli incroci, disperando di riuscire a procedere, tanto che impiegarono quasi un'ora a percorrere il mezzo miglio che le separava dalla meta. Né Mr. Smith né Mr. Williams sapevano della loro visita. Erano totalmente sconosciuti agli editori di Jane Eyre, che di fatto non sapevano nemmeno di che sesso fossero i Bell e avevano sempre scritto indirizzandosi a uomini. Nel presentarsi a Mr. Smith, Charlotte gli porse la sua lettera, quella lettera che aveva cagionato tanto scompiglio alla canonica di Haworth appena 24 ore prima. «Dove l'ha presa? chiese lui, non riuscendo a credere che quelle due giovani signore vestite di nero, di bassa statura e di corporatura minuta, dall'aspetto felice e insieme agitato, incarnassero veramente quei Currer e Acton Bell, alla cui identità si era dato invano una caccia tanto accanita. Seguì la spiegazione. E Mr. Smith incominciò subito a far progetti per il loro divertimento e piacere durante il soggiorno londinese. Le pregò di partecipare a una riunione di amici letterati a casa sua. Questa fu una forte tentazione per Charlotte, poiché fra gli invitati vi sarebbero stati alcuni scrittori che desiderava molto conoscere, ma la volontà di rimanere in incognito la indusse a rifiutare in modo tassativo. Le sorelle rifiutarono anche ospitalità in casa di Mr. Smith e vollero tornare alla locanda dicendo che non erano equipaggiate per un lungo soggiorno. Quando furono di ritorno nella loro camera, la povera Charlotte pagò con un lacerante mal di capo e ripetuti accessi di nausea l'emozione della recente intervista che aveva concluso il precipitoso corso delle ultime 24 ore. La visita di alcune signore della famiglia Smith era prevista verso sera. Si preparò a riceverle prendendo una forte dose di sali volatili che la sollevarono alquanto. Tuttavia, si trovava ancora, come scrive all'amica, in uno stato di gravoso malessere fisico quando furono annunciate le visitatrici che si presentarono in vestito da gran sera. Le sorelle non avevano capito che si era deciso di condurle all'opera, perciò non erano pronte, per di più non avevano vestiti eleganti né con sé né in qualsiasi altro angolo della terra. Tuttavia Miss Bronte non volle opporre un rifiuto a quel gesto cortese e così lei e Anne si affrettarono a indossare le loro semplici e campagnole vesti di ricambio. Charlotte così descrive, nel già citato resoconto di quella visita a Londra, l'ingresso del loro gruppo a teatro. Mentre eravamo ferme all'entrata, in attesa che ci venisse dato il passo, signore Inghingeri e gentiluomini ci scrutavano con una leggera, graziosa aria di superiorità che le circostanze giustificavano senz'altro. Tuttavia, a dispetto del mal di capo e della nausea, mi sentivo piacevolmente eccitata, anche se sapevo di fare una modesta figura, ma vedevo che Anne al suo solito era calma e gentile. Davano il barbiere di Siviglia, di Rossini, spettacolo brillantissimo, anche se, suppongo, vi sono cose che mi sarebbero piaciute di più. Rincasammo a luna passata. La notte prima non avevamo visto il letto, eravamo state in costante tensione per 24 ore, puoi immaginare se eravamo stanche. Il giorno seguente, domenica, Mr. Williams ci chiamò per tempo per accompagnarci in chiesa e nel pomeriggio Mr. Smith e sua madre vennero a prenderci in carrozza e ci portarono a casa loro per il pranzo. Di lunedì andammo all'esposizione della Royal Academy, visitammo la National Gallery, pranzammo nuovamente da Mr. Smith e poi andammo con Mr. Williams a casa sua per l'ora del tè. Partimmo da Londra martedì mattina, cariche di libri datici da Mr. Smith, e arrivammo sane e salve a casa. Sarebbe stato difficile immaginare una poveretta più stanca e pallida di me. Ero magra alla partenza, ma tornai addirittura scarna, con un viso verde e vecchio, scavato da strane profonde rughe, con gli occhi dallo sguardo innaturalmente fisso. Ero stanca eppure irrequieta. Tuttavia questi cattivi effetti prodotti dalla sovreccitazione svanirono presto e tornai alle mie normali condizioni. Durante quel primo contatto, Miss Bronte, a quelli che la conobbero a Londra, lasciò l'impressione di una persona dalle idee chiare e dal saldo buonsenso, che, benché piena di riserbo, aveva la facoltà di stimolare gli altri alla conversazione. Non espresse mai un'opinione senza fondamento, non pose mai una domanda oziosa e sapeva mettere a suo agio gli interlocutori. La sua conversazione era genuina e stimolante, e quando si lanciava nella lode o nella critica, sia dei libri che dei comportamenti o delle opere d'arte, la sua eloquenza si faceva ardente. Andava fino in fondo a quanto diceva o quanto faceva, così aperta e sincera nel trattare un argomento o nel contendere con un contraddittore, che invece di suscitare risentimento convinceva chi l'ascoltava dell'ardore del suo zelo per il vero e per il giusto. Il luogo scelto come albergo non era stata la parte meno singolare del viaggio delle sorelle. Paternoster Row era stato per molti anni abitato quasi esclusivamente da editori. È una stretta via lastricata che si prolunga all'ombra della cattedrale di St. Paul. Alle due estremità Vi sono degli steccati posti per impedire il passaggio dei veicoli e per proteggere il silenzio solenne nel quale vengono prese le decisioni. I brutti magazzini che si aprono sfambuilati oggigiorno sono occupati per lo più da grossisti di cartoleria. Anche se alcuni appartengono a degli editori, non mostrano allegre facciate sulla buia e stretta via. A metà di questa, sulla sinistra di chi procede in direzione del centro, vi è la Chapter Coffee House. Vi sono andata lo scorso giugno, era disabitata. L'edificio, vecchio di 200 anni o giù di lì, aveva l'aspetto di quelli che a volte si vedono ancora nelle piccole città rurali. I soffitti delle esigue stanze sono bassi, attraversati da pesanti travi, le pareti sono rivestite di legno a mezza altezza, le scale dai bassi gradini, larghe e buie, occupano molto spazio al centro della casa. Tale era dunque la Chapter Coffee House che un secolo fa fungeva da locanda per i pubblicisti e per i librai e tutti i letterati da strapazzo, critici e anche veri intellettuali che erano soliti andare in cerca di idee o di lavoro. È qui che Chatterton scrisse alla madre a Bristol le lettere ingannatrici mentre stava morendo di fame a Londra. Sono sistemato benissimo alla Chapter Coffee House e sono in rapporti con tutti i geni che la frequentano. Udì parlare di un possibile impiego e lì lasciò le sue lettere. Negli anni successivi fu frequentata dagli studenti e dagli ecclesiastici di passaggio nella capitale, i quali, non avendo né amici personali né contatti sociali, erano lieti di apprendere quanto avveniva nel mondo delle lettere grazie alle conversazioni che udivano nella sala da pranzo. Mister Bronte, nelle rare visite fatte in città mentre era studente a Cambridge e più tardi durante il periodo in cui era stato curato a Essex, vi aveva abitato e vi aveva condotto le figlie in viaggio verso Bruxelles e lì Charlotte e Anne erano finite per semplice ignoranza di un altro albergo. Il luogo era frequentato unicamente da uomini e a quanto mi consta, fra il personale di servizio vi era una sola donna. Poche persone vi dormivano, ormai da più di un secolo vi si svolgevano i convegni della Camera di Commercio e occasionalmente vi pernottavano librai di provincia o qualche raro ecclesiastico. Questo era lo strano luogo, tutto commerciale e maschile, dove le ragazze Bronte abitavano. A quanto pare il vecchio attempato dai capelli grigi che fungeva da cameriere fu commosso fin dal primo momento dalla quieta semplicità delle due signore e fece il possibile per sistemarle comodamente e metterle a loro agio nel basso, lungo ambiente al primo piano dove si svolgevano le riunioni. Le finestre, alte e strette, guardavano sul Row. Le sorelle, vicine l'una all'altra nel vano della finestra più lontana dall'uscio, come Mr. Smith mi dice di averle trovate il sabato sera quando era andato a prenderle per accompagnarle all'opera, non potevano godere di alcuna vista, né vedere alcun movimento contro le severe case grigie di fronte, così vicine, benché la larghezza del Row si frapponesse. Il potente ruggito di Londra, simile alla voce di un oceano invisibile, le circondava. Eppure, il rumore di un passo sul marciapiede sottostante si udiva distintamente, tanto quella via era poco frequentata. Ma nonostante tutto, preferirono rimanere alla Chapter Coffee House piuttosto che accettare l'insistente invito di trasferirsi in casa della madre di Mr. Smith. Più tardi, Charlotte scriverà in proposito: «Da allora ho visto il West End, i parchi, le grandi piazze, tuttavia preferisco di gran lunga la City». La City sembra tanto più impegnata. Il suo traffico, il suo movimento, i suoi affari, il suo frastuono sono cose serie da vedere e da udire. La City si guadagna la vita. Il West End si gode i divertimenti. Nel West End ci si può svagare, nella City ci si impegna a fondo. Villette, volume primo. Avevano espresso il desiderio di ascoltare il reverendo dottor Crowley, perciò il giorno seguente, domenica mattina, Mr. Williams le escortò a St. Stephen Walbrook, ma furono deluse perché quella volta il dottor Crowley non predicò. Mr. Williams le portò inoltre, come riferito da Miss Bronte, a prendere il tè a casa sua. Per recarvisi dovettero attraversare Kensington Garden e Miss Bronte fu molto colpita dalla bellezza di questo parco, dal fresco verde dei prati all'inglese e dalle morbide, ricche masse del fogliame. Dalle considerazioni sul differente carattere del paesaggio del sud e del nord, passò a parlare dell'intonazione morbida e modulata delle voci di tutte le persone che avevo conosciuto a Londra. Cosa che fece una forte impressione alle due sorelle. Durante quella prima visita, chiunque venne in contatto con le Miss Browns, un altro pseudonimo che incominciava con B, sembra che le abbia considerate due timide donnette di campagna, molto riservate e con poco da dire. Mr. Williams mi dice che la sera in cui le accompagnò all'opera, salendo la scalinata che conduce dall'atrio al primo ordine dei palchi, Charlotte fu talmente impressionata dallo splendido effetto delle decorazioni che ornavano il vestibolo e le sale, che gli strinse il braccio senza rendersene conto, mormorando: «Sa, non sono abituata a questo genere di cose». In verità, quale vivido contrasto con lo spettacolo della sera prima, quando procedevano a piedi col cuore in tumulto e un coraggio portato alla massima tensione lungo la strada che conduce da Haworth a Keighley, sfidando il violento temporale che infuriava intorno, tutte occupate dal pensiero di dover dimostrare una volta a Londra che erano veramente due e non un singolo impostore. Non c'è da meravigliarsi se ritornarono a Haworth completamente spossate e frastornate dalla fatica e dall'eccitazione di quella visita. Le successive informazioni circa la vita di Charlotte in quel periodo sono di carattere diametralmente opposto. 28 luglio. Il comportamento di Branwell è quello solito. La sua salute sembra a pezzi. Papà e a volte anche noi passiamo per causa sua delle notti dure. Dorme per la maggior parte del giorno e perciò rimane sveglio tutta la notte, ma ogni casa non ha la sua croce. Mentre le sue più intime amiche ignoravano ancora che era lei l'autrice di Jane Eyre, ricevette una lettera da una di esse che le chiedeva informazioni circa la scuola di Casterton. Ecco quanto risponde il 28 agosto 1848. «Poiché desideri da me alcune notizie mentre sei lontana da casa, te le mando senza indugio. Spesso accade che se rimandiamo di rispondere subito alla lettera di un'amica, sorgono poi ostacoli che cagionano un inscusabile ritardo. Nell'ultima mia mi sono dimenticata di soddisfare una tua richiesta e poi fui spiacente per questa omissione, perciò in questa mia riparerò subito, benché le notizie ti arriveranno alquanto in ritardo. Mi dicevi che Mrs. pensava di mandare a scuola X e desiderava sapere se il convito per figlie di ecclesiastici fosse una scelta opportuna. Beh, la mia conoscenza di questo educandato è molto vecchia, poiché risale all'esperienza che vi ho fatto 20 anni addietro. In quel tempo l'istituto era agli inizi e che triste malandata infanzia fu quella. La febbre tifoidea decimava periodicamente le alunne, la tubercolosi e la scrofula sotto tutte le varie forme che aria e acqua insalubre, cibo cattivo e insufficiente possono far insorgere, si impadronivano delle infelici scolare. Allora non sarebbe stato un luogo adatto per alcuna delle figlie di Mrs. Mi dicono ora che è cambiata da quei giorni assai meglio. La scuola è stata rimossa da Cowan's Bridge, posizione tanto insalubre quanto pittoresca, bassa, umida, ma bella per i boschi e per l'acqua corrente, e trasferita a Casterton. I dormitori, il vitto, la disciplina, il metodo di insegnamento sono, credo, totalmente cambiati per il meglio. Mi hanno detto che le convittrici di buona condotta, se rimangono nell'istituto fino alla fine del corso di studio, se lo desiderano, sono sistemate dalla direzione come governanti e che una grande cura viene posta nella selezione. Mi hanno anche detto che quando lasciano Casterton viene loro fatto dono di un ottimo corredo. La più antica famiglia di Haworth ha fatto fallimento ultimamente e i suoi membri hanno lasciato il vicinato dove i loro padri, a quanto si dice, avevano vissuto per 13 generazioni. Papà, grazie al cielo, continua in ottima salute se consideriamo la sua età. Direi che la vista, invece di deteriorarsi, migliora. Anche le mie sorelle stanno bene. Ma la nuvola nera sospesa su quella casa predestinata si faceva più cupa di ora in ora.